Da capitano voglio ringraziare i tifosi che hanno mantenuto la promessa di sostenerci dal primo minuto fino al 95esimo. Bisogna soffrire tutti insieme e uscire da questo momento uniti tutti. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Converge Insigne, grande giocata, va sul fondo Insigne ed è un gol meraviglioso. Lorenzo il Magnifico porta subito in vantaggio il Napoli, esplode il San Paolo. Oggi ho rivisto il veleno, chi è entrato ha dato l'anima, chi ha giocato a primo minuto ha dato l'anima, e noi non dobbiamo, in questo momento non dobbiamo perdere tutto questo. Oggi valiamo 24 punti, oggi l'allenatore vale 24 punti, il presidente vale 24 punti, Giuntoli vale 24 punti, i giocatori valgono 24 punti e dobbiamo giocare a quello per come valiamo, perché se pensiamo che vogliamo giocare che siamo secondi in classifica, non siamo i secondi in classifica. Hanno deciso i giocatori, io non ho deciso niente. Dopo ho sentito pigiama party, robe, no, non c'è stato nessun pigiama party. Perché se oggi le cose andavano male, il ritiro domani si faceva la stessa cosa che abbiamo fatto l'altro giorno e forse si ripartiva venerdì di nuovo. Scivola Immobile che spreca clamorosamente il calcio di rigore. Abbiamo la Coppa Italia sulla maglia, quindi volevamo la semifinale a tutti i costi, purtroppo non andremo e bisogna fare i complimenti a Napoli perché in una situazione non semplice hanno fatto un'ottima gara. Allora, mentre in questo momento non vorrei essere né la racchetta di Fognini né l'arbitro di match contro Thompson che è al tie break, Fognini ancora in campo, ultima bandiera italiana dopo l'eliminazione di Sinner e Berrettini, ne parliamo dopo con Stefano Meroccaro alle 14.35, ma intanto poi vi aggiorno perché sono al tie break del quinto set, Fognini ha dominato i primi due, poi ha sperperato tutto negli altri due, nel quinto set ha così perso anche due, ha avuto anche due match point non sfruttati, vabbè, vediamo cosa succede. Intanto saluto il mio amico Ivan Zazzaroni, ciao direttore. Ciao, buongiorno. Buongiorno, ciao Pierluigi Pardo. Ciao Ivan. Non vorrei farla troppo lunga, sennò Ivan si arrabbia e mi sgrida. Però no, non mi arrabbio più da un sacco di tempo. No, con me sempre mi baccheggio. Ma il medico mi ha ordinato di non arrabbiarmi con te. No, però Napoli-Lazio, per chi crede nelle stelle che governano il calcio, può essere una specie di sliding door, no? La fortuna che per una sera gira le spalle alla Lazio, è Immobile e guarda teneramente Gattuso e Insigne. Sì, la lettura è giusta, nel senso che il Napoli fino a oggi è stato sfortunatissimo, oltre che evidente ha commesso errori clamorosi, su tutti i punti di vista. Ieri sera ha avuto così una restituzione, no? Ha avuto nella seconda parte, quando al di là del rigore, che è stato abbastanza buffo, quello di Immobile, però nella seconda parte la Lazio ha dominato, cioè abbiamo visto la squadra che sta peggio contro la squadra che sta meglio in questo momento ottenere un risultato al contrario, però... Ci sta, dai, voglio dire, il Napoli ha bisogno comunque di una iniezione di fiducia. Non so se fosse veleno o non veleno, come dice Gattuso, però ha provato a vincere la partita e c'è riuscita. Sì, ci è riuscito mettendo anche i nuovi che a me non sono dispiaciuti, e d'altra parte gente che non è coinvolta nelle dinamiche attuali. Piuttosto, Pierluigi, sai, queste partite qui sono anche pericolose, mi riferisco alla Lazio, non è che è una partita che può lasciarti qualche segno, che può così. Non lo so, ho detto l'altra sera a cena c'era un mio amico laziale che sosteneva che addirittura convenisse uscire dalla Coppa Italia. A me questi calcoli non piacciono, non convincono. Secondo me il fatto di non giocare l'Europa League e le coppe è un vantaggio per la Lazio del girone di ritorno, ma una semifinale di Coppa Italia avrebbe comunque fatto comodo. Secondo me ieri ha ragione il direttore, cioè il Napoli sicuramente ha dato un segnale rispetto a Napoli-Fiorentina, sicuramente è stato migliore, ed è stata una partita un po' in controtendenza con quello che si era visto ultimamente. Cioè, la Lazio è meravigliosa, ha fatto 11 vittorie consecutive, in alcune di queste vittorie ha trovato anche degli episodi favorevoli, anche per esempio il Lazio-Napoli, banalmente l'errore di Ospina. Ieri è successo il contrario, cioè io non ho visto assolutamente una Lazio in calo, ho visto la solita grande Lazio che in certi momenti ha anche schiacciato il Napoli. Però il Napoli è stato bravo, ha lottato, ha sofferto, si porta a casa questa semifinale che adesso diventa veramente una prospettiva nuova, perché quando sei in semifinale di Coppa Italia non sei così lontano dal traguardo, e di questi tempi di dittatura della Juve comunque giocare una finale o addirittura alzare un trofeo, insomma, sarebbe un grande risultato, no? Quindi in un quarto di finale di Coppa Italia la risposta te la dai da solo. Il Napoli passa il turno, è in semifinale, e questo gli può dare ottimismo, orgoglio. Certo, tanto può essere la scintilla che invocavamo, no, per il Napoli, che è totalmente spento nelle ultime settimane, Pier. Però sai, quando Immobile, che in questo momento tocca la palla va in porta, scivola sul dischetto del rigore come neanche un Jason, un Terry qualunque, allora qualche idea ti viene, no? Dici, sai, il calcio è fatto così. Ma sai, questa Napoli ha fatto le cose più importanti contro le grandi squadre. Pensa soltanto in Champions, no? Con Liverpool. Quindi anche a Salisburgo ha fatto benissimo. Con la Lazio ha fatto il suo risultato. A Torino ha avuto fortuna e sfortuna, soprattutto. Però bisogna capire, e tu dici la scintilla. È evidente che vincere, passare il turno, ritrovarti in semifinale ti aiuta, ti dà un pochino più di fiducia anche nel lavoro, aiuta soprattutto Torino. Ma se domenica c'hanno la Juve, cioè, anche questa sfiga qua, da un certo punto di vista bisogna capire se il tipo di reazione sarà non soltanto di fortuna ma anche di gioco, perché ieri in alcuni momenti ho visto un buon gioco. Questo tema si è inserito, è la prima partita, no? quando tu giochi a tennis dopo tanto tempo, la prima la fai sempre bene. Ieri l'ha fatta veramente bene, sembrava uno del Napoli da tanto tempo, quindi vediamo se Demme aiuta, se lo Botka aiuta, se altri giocatori troveranno. Ecco, Milik in questo momento lavora per la squadra ma trova poco la porta. Insigne, ecco, il dato fondamentale è l'atteggiamento di Insigne, che era stato massacrato di fischi, Pierluigi, l'ha raccontata tu una partita l'altra sera. Io vorrei fare un inciso di 30 secondi sull'aspetto del pubblico, nel senso che è un po' quello che dicevamo l'altro giorno. Premesso che a me piace pure tantissimo, anzi anche di più, lo stadio all'inglese. È uno stadio senza barriere, senza tipo organizzato, quindi non è che voglio fare lo sponsor delle curve. Però per com'è la struttura del calcio italiano, così come siamo giustamente pronti a stigmatizzare episodi di violenza quando ci sono, ma ripeto, i violenti sono ovunque, non solo nelle curve, sono anche nelle tribune, sono in qualsiasi settore dello stadio, purtroppo, bisogna dire, secondo me, che l'impatto c'è, perché io ieri non ero al San Paolo, ma mi sembra che il ritorno della tifoseria organizzata abbia sicuramente aumentato l'intensità della spinta che ha avuto il Napoli, quindi questo va riconosciuto. Poi, per carità, si può lavorare in futuro, in prospettiva, su un'idea di stadio diversa. Per carità, il dibattito è aperto, e ripeto, quando poi i tifosi si comportano male è giusto dirlo, però quando non ci sono la differenza si sente. Io l'altra sera ero a San Paolo, a Napoli Fiorentina, e come clima era diverso, quindi un ruolo ce l'hanno ed è giusto, secondo me, riconoscerlo. Ieri secondo me sono stati una spinta importante per il Napoli, perché l'ha riconosciuto anche lo stesso Gattuso. Comunque l'ambiente è importante, in campo ci vanno gli uomini, e se c'è una curva che tifa, ti sostiene, ti sta vicino, sicuramente dà una mano alla squadra di casa e crea un problema alla squadra fuori casa. Sì, altro tema invece che è legato alla partita di ieri sera, Ivan, ho letto con attenzione come sempre il tuo Corriere dello Sport, ebbene credo che l'arbitraggio di massa di ieri sera possa essere quasi interpretato come un manifesto della crisi arbitrale. Beh, ieri ha fatto molto male arrivando sempre in ritardo, e addirittura sulla seconda munizione di Isai, sì, si è fatto suggerire da Manganiello, cioè, ed è stato talmente evidente che ti lascia molto perplesso, nel senso che è stata una brutta scena, voglio dire, c'era la munizione, sia chiaro, cioè c'era l'espulsione, quindi nessun problema, però è arrivato in ritardo sul rigore, è arrivato in ritardo sulla munizione e soprattutto l'espulsione di Leiva. Francamente il fallo Leiva per me non lo commette, no, io non sto commettendo, no, ecco, no, quindi non lo commette, la reazione è una reazione sbagliata, ci sono arbitri che certe reazioni non le ascoltano nemmeno e ce ne sono altri invece che hanno una sensibilità di orecchio straordinaria. Poi ci sta, voglio dire, non puoi reagire. Sì, episodio parente di quello di Brescia, no? Con l'espulsione di Balotelli, che è stato Mario è molto sotto per causa sua, non per colpa di altri, molto monitorato. Lui poi peraltro è sempre evidente nelle sue esplosioni, per cui lì è totalmente chiaro il discorso. Però ti ripeto, reazioni istintive e il vaffa che scappa molto spesso anche a noi, però non puoi farlo e non lo devi fare, a volte perdonate, altre volte no. Stavi dicendo Pier? No, che ha ragione Inzaghi, lì c'è un doppio errore, un errore tecnico da parte dell'arbitro sull'episodio e poi c'è comunque un'ingenuità da parte del calciatore, perché soprattutto un calciatore di esperienza in quella situazione con la superiorità numerica doveva ragionare e quindi non doveva mettersi nelle condizioni di rischiare, quindi da questo punto di vista mi sembra che l'analisi sia perfetta. Sull'arbitraggio sicuramente non all'altezza, io penso che al di là di tutto il VAR abbia aumentato incredibilmente il livello di aspettativa anche inconscia delle persone, nel senso che giustamente le persone, il pubblico invoca il VAR anche dove non può essere utilizzato per il protocollo, no? In tante situazioni, cioè, è difficile tornare indietro e quindi gli arbitri sono chiamati. Bisognerebbe andare un po' avanti, però. E affidarsi sempre di più della tecnologia, perché insomma gli errori plateali, penso a quello secondo me il più incredibile dell'anno in Europa League di Roma Borussia Mönchengladbach, di Collum, ecco, quando succede una roba del genere capisci che veramente c'è uno che magari ha speso 100 euro per andare a vedere una partita, no, è chiaro, ma appunto non si abbiamo può tornare. Abbiamo usato fortunatamente l'asticella delle aspettative. Sì. A questo punto però bisogna saltarla, perché così come è applicato, in alcuni casi non serve a niente, in altri casi è deleterio, in altre circostanze ovviamente è risolutivo, però così a mezz'asta non va bene. Intanto Fognini vince, rimane in corsa negli Australian Open. Ha vinto. Come sta la racchetta? Non lo so. Dopo che l'ho visto battere uno di 2-11, cioè quando sono andati a salutarsi, cioè avevo pensato a Insigne di fianco a Ibrahimovic, a Kraus. Sì. No, fa impressione, cioè vedevi un giocatore di basket contro Fognini. Sì. Quindi. Poi che anche in quel match lì è stato balotelliano, ma lui lo è. Vedi, il discorso è questo qua, cioè ha ragione Pier quando dice l'esperienza, però anche noi che abbiamo esperienza e facciamo cose molto meno importanti, chi ha 50, chi ha 60 anni, se ci fanno girare le palle, se io non commetto un fallo, sono 11 contro 10 e tu mi fischi, mi ammonisci, urcami, anche se sono esperto, ho giocato la Champions, mi scappa. E quindi io credo che un minimo di tolleranza in queste cose. D'accordo. Sono d'accordo con te. Ancora mi lode per la prima di servizio che secondo me era buona ed era primo set con Marcolina a Genova un mese fa. Quindi capisci, no? Ma guarda, questo è assolutamente vero ed è bello, è tecnicamente bello. Sì. Il momento in cui anche il grande sportivo sbrocca il controllo, è un momento sbagliato, ma è un momento che ci ricorda che poi tutta questa roba qui, per quanta plastica, per quanto business, per quanta per quanto artificio ci possiamo costruire intorno, poi rimane la storia di uomini che si combattono e che danno tutto in campo per vincere, per il puro piacere di vincere, e questa è meravigliosa, lo sport. Evidentemente emulazione, maleducazione, insegnamento nei confronti dei giovani, sì. Però sai di. Ma io continuo, Ivan, io continuo in macro discorso, io continuo a pensare che i giocatori professionisti non debbano essere esempio per nessuno, punto e basta. Ma io esempio, esempio ai ragazzi, no, non sono quelli gli esempi, però, bravo. Però lo sono perché sono. Scusami, ci sono delle ragazzine che vogliono diventare influencer, figure se non sono sì, delle ragazzine. Va bene, se tu sei il papà o la mamma, gli dici no, guarda, quello lì si è comportato da coglione e quindi tu non farlo perché lui l'ha fatto, vabbè, ha fatto una figuraccia. Io conosco quindi gente che vuole diventare come Pardo, capisci? Cioè. Vabbè, questo mi sembra un discorso virtuoso. Ti chiedo un'ultima cosa prima di lasciarti lavorare. Sì, basta mangiare molto comunque. Basta mangiare molto. Non solo. Beh, seguire una dieta appropriata. Esatto, appunto. Esatto. Mercato due punti. Politano, Roma o Napoli? Una vicenda strana, bizzarra, curiosa. È una vicenda surreale, non strana, perché addirittura sono intervenuti i rapporti tra due società. Scuse ingiustificate, attacchi diretti, perché lo stesso Petrachi, io in questo caso difendo la Roma, faccio fatica perché per i rapporti che ho, però devo dire che la Roma si è comportata benissimo, chi non si è comportato particolarmente bene in questo caso è stata l'Inter, nel senso che hanno tirato fuori una storia sulla gamba più corta leggermente o altre cose che sapeva veramente di scusa inutile, tanti giocatori hanno, sono giocatori che hanno 3 mm o 3 cm di gamba più corta e Spinazzola è un giocatore assolutamente praticabile, bisogna stare molto attenti in queste cose perché quando tu in qualche modo incoraggi dei dubbi sull'aspetto fisico di un calciatore o hai delle certezze assolute oppure rimedi le bruttissime figure. Quindi in questo caso Politano vuole andare alla Roma, lo sappiamo, però forse va a Napoli. L'Inter chiede 25 più 3, potrebbe essere 21 più 4, quello che vuoi. In Napoli quei soldi non è disposto a spenderli. Io credo che comunque, come tu sai, se liberi Politano prendi Giroud, per cui ci sia la volontà di liberarlo, non puoi tenerlo 4 mesi a fare niente all'Inter, quindi aspettiamoci un passaggio o alla Roma o al Napoli. Io in questo momento penso più alla Roma e se non va alla Roma arriva Suso al 90%, sì. Però c'è anche giustamente la soluzione politica. No, perché poi nessuno discute del valore assoluto di questi giocatori che è elevato, lo stesso discorso vale per Bernardeschi, Juventus, Barcellona, quella storia lì, discute ma del ruolo. Meno, io a quella credo meno. Sì, ma era una roba assoluta di estate. La cosa che mi fa pensare è che Politano lo scorso anno è stato uno dei migliori giocatori dell'Inter, se non forse il migliore per rapporto qualità-prezzo e rendimento. Però quando arriva Conte li vuole dal 1,95 in su, giocatori. Quindi il giocatore di tennis dell'altro giorno poteva andare benissimo. Sì, invece Mourinho tenta fino alla fine l'ultimo dispetto a Marotta e ai suoi amici Marotta e Conte, dispetto, però Mourinho ma non è tanto un dispetto, Mourinho si diverte in queste cose qua, anche se devo dire i risultati non sono particolarmente divertenti. È vero che quando si sente un po' stretto da altri sul mercato fa il Mourinho e a lui permettiamo tutto perché è Mourinho. I imitatori di Mourinho non mi piacciono. Sì, grazie Ivan. Ciao, grazie. Ciao. Guarda, ne parlavo ieri a Pesaro, a proposito, un incontro con le ragazze del master sportivo e sono fatto appunto sei a Pesaro? No, adesso sono a Milano, tornato, ma sulla coerenza rispetto a se stessi, no? La coerenza della comunicazione, pensavo proprio l'esempio di Mourinho, Mourinho perché è così, se dovesse scimmiottare qualcun altro non sarebbe altrettanto credibile. Su Politano io credo che giocatore abbia una preferenza per la Roma abbastanza chiara, detto questo la sua seconda priorità poi è comunque andare a giocare e io penso che il Napoli sia una soluzione comunque molto interessante, quindi secondo me lui in testa ha le gerarchie molto precise, Roma, però se non dovesse esserci questa soluzione secondo me andrebbe anche a Napoli, giustamente è una grande piazza perché ha bisogno di giocare. E su Eriksen io credo che se l'Inter riuscirà a chiudere farà un grande colpo perché il giocatore, ripeto, più in prospettiva magari che nell'immediato, che secondo me è un giocatore che potrebbe avere bisogno di un po' di tempo per diciamo amalgamarsi nel sistema Inter. Poi in realtà Sneijder è un giocatore di caratteristiche simili, ovviamente auguriamo di fare a Eriksen di fare la carriera che ha fatto Sneijder all'Inter, ci mese 5 giorni, cioè sì, 2 giorni in un altro contesto probabilmente in un altro contesto, per carità, però però voglio dire, è chiaro che il famoso termine di paragone è sempre con Vidal, no? Sì, no, Vidal pronto per l'uso 5 minuti dopo. Eriksen, certo, secondo me, è più in prospettiva l'anno prossimo. Però non ho dubbi sul talento, ecco, non ho dubbi sul talento. Senti, ti propongo, fermiamoci un attimo, break, e poi torniamo con Raffaele Auriemma e sentiamo che cosa ha da dire su Gattuso di Napoli e dintorni. La Lazio è scesa in campo per uscire dalla Coppa Italia. Vogliono giocare solo il campionato, è chiaro, no? Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Dopo ho sentito dire, circolava la voce che mi sono presa a cazzotti con Alan, sentivo che si è rifiutato, no, Alan è da 5 partite che gioca con antinfiammatori, ha un problema, meno male che ieri mattina siamo andati a fare una risonanza, bisogna fare i bravi per aiutare questa squadra qua, se la vogliamo aiutare, se dopo bisogna vendere una copia in più o fare una cliccata in più per guadagnare qualcosina, non lo so, se vogliamo bene a questa squadra, se vogliamo bene a questa città, bisogna fare i bravi. Raffaele Auriemma, buongiorno, non credo che ce l'abbia con te, no? Ma spero di no, ma anche perché io non voglio bene alla verità, quindi al di là dell'essere tifoso, secondo me deve essere anche corretto il modo di fare informazione. Se non sono a conoscenza di una notizia, non è che mi appello al pourparler o al giudice. No, certo, certo. Ascolta, ti richiamo che si sente male, da uomo di radio sai cosa intendo. Dicevamo di Gattuso che, vabbè, ieri sera si è tolto i soliti sassolini dalle scarpe, vabbè, ne ha ben donde, no? Un momento complicato. Su Alan non avrei un'idea, certamente qualcosa c'è, ma da tempo, no, Piero? Gattuso fa il Gattuso, fa i suoi interessi, ha ragione, è indiscutibile, ha ragione pure sul fatto, ma questo non vale solo per Napoli, vale in generale per tutta la stampa, per tutto, insomma, ovviamente di calcio se ne parla continuamente e ogni tanto si lanciano anche delle congetture, delle supposizioni, non è che tutto quello che viene detto purtroppo è verificato e verificabile al 100%. Però è vero pure che poi queste cose succedono quando i risultati non arrivano, questo va riconosciuto, lo sa per primo Gattuso, certo. Quindi è chiaro che una squadra io credo sia che... siamo un po' presto per dire che la pace è fatta, che la burrasca è passata, oggettivamente sentivo anche il messaggio dell'ascoltatore che diceva la Lazio pensa solo al campionato, ma cioè la semifinale di Coppa Italia è qualcosa che vale di per sé, diventa anche banale ripeterlo, cioè è un trampolino per provare ad andare a giocare una finale di Coppa Italia, per provare a vincerla, che significa posto in Europa League, che significa ovviamente alzare un trofeo, che poi è il modello Lazio di questi anni, certo, è il modello virtuoso della Lazio di questi anni, a no? condizione quindi... di non pagare troppo dazio in questo momento in termini di infortuni, per fortuna ieri sera non ci sono stati di ulteriori problemi. Io sono altre due partite, massimo tre, cioè non è che non è l'Europa League. Se allora uno ha paura di giocare, a questo punto meglio non iscriversi. No, ma è chiaro. Uscire di proposito, no. Io sai che penso che insomma, se Inzaghi avesse fatto anche un turnover molto più robusto di quanto non ha fatto ieri sera, perché di fatto è rimasto solo Luis Alberto a casa, beh, insomma, avrebbe avuto le sue ragioni. È tornato la Raffaele Auriemma? No, non riusciamo ad acchiapparlo. Secondo te no? Secondo me no, nel senso che la Lazio, a parte che da questo punto di vista è un modello, proprio perché ha utilizzato in questi anni la Coppa Italia come trampolino per andarsi a prendere poi una crescita che c'è stata oggettiva e poi per alzare i trofei, perché in tutto questo delle volte ci si dimentica di questo piccolo dettaglio, che l'obiettivo finale è alzare i trofei, e in un campionato che negli ultimi anni è stato dominato dalla Juve, la Coppa Italia ha rappresentato per la Lazio, ma anche per il Napoli ad esempio, un'occasione per provare a per regalarsi cioè, della gioia. No, ma per il Napoli il significato della partita di ieri sera è enorme. Vediamo se riusciamo a rubare una battuta a Raffaele Auriemma, ma per fargli dire un po' presto per dire diciamo che pace è fatta, che le nuvole sono passate, che è un nuovo punto di partenza. Non credo sia ancora così né per il Napoli, né per Gattuso, né per Insigne, né per tutti quanti. Ma guarda, l'importante è che la concordia ci sia tra Gattuso e i calciatori, poi tutto il resto verrà spazzato via dai risultati, quelli che sono mancati finora. Ieri sera ho visto una squadra finalmente combattiva, finalmente vogliosa di stringere i denti, anche se non meritava oggettivamente di andare avanti, perché la Lazio di occasioni ne ha viste di più. Però almeno si è visto un Napoli decente, un Napoli sul quale puoi immaginare di costruire un futuro anche prossimo, sì, che sia più performante di quello che si. No, vabbè, anche perché meno è impossibile, meno performante. Su Napoli per il futuro prossimo credo non vada oltre la prossima partita o le prossime due, tre, dopo la Juventus avrà un paio di partite in cui potrà fare punti. Con la Juventus sinceramente la vedo chiusa, però bisogna capire se ci possono essere dei progressi sulla strada così percorsa ieri. Chiusa no, però Carlo, nel senso che allora pure la partita di ieri poteva sembrare chiusa alla vigilia, visti i numeri della Lazio recenti. E il Napoli ieri, ripeto, ha avuto, e fa bene Raffaele ed è onesto intellettualmente a riconoscerlo, ha avuto sicuramente una partita fortunata, nel senso che comunque sul piano delle occasioni la Lazio ne ha avute di più. Però il Napoli ci ha creduto, ha fatto il gol subito, ha avuto delle occasioni anche per chiuderla, quindi insomma secondo me poi è una partita secca, tutto è possibile, la partita di ieri ce lo dimostra, è ancora una squadra in convalescenza, è ancora una squadra che deve recuperare giocatori importanti, perché poi questo non va dimenticato, ci sono pure le assenze, oltre a tutto il resto. Ripeto, oggi arrivo a dirti che quasi farei turnover in campionato per concentrarmi sulla Coppa Italia. Questo certamente nel Napoli, in questo momento per il Napoli l'obiettivo sono le partite che restano di Coppa Italia, le 1-2 che resta di Coppa Italia, e poi c'è quella sfida con il Barcellona di cui avremo tempo e modo di parlare. Fermiamoci un attimo, Borsa, torniamo. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. I miei risparmi, interessi praticamente zero, meno i costi, fa più o meno, meno. I conti correnti rendono sempre meno, Banca Mediolanum invece ti dà di più. Sono Massimo Doris, Mediolanum oggi ti offre il 2% annuo sulle nuove somme vincolate a 6 mesi, più un family banker dedicato per ogni tua esigenza. Mediolanum ti dà di più, da sempre. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Pubblicità, per i correntisti fa solordo sui vincoli in promo fino al 31 marzo, documento promozioni e fogli informativi su bancamediolanum.it. Dal 2 al 5 febbraio, appuntamento a Riva del Garda con la più completa fiera italiana dedicata all'ospitalità e alla ristorazione. Hospitality, il salone dell'accoglienza, apre le porte alle eccellenze e alle tendenze del settore Horeca. Oltre 100 appuntamenti formativi dedicati all'hotellerie, alla mixology e alla birra artigianale. Acquista il tuo biglietto online e seguici su @hospitalityriva. Foto di gattini, canini, un testo su quale verdura assomiglio. Online c'è di tutto, ma anche qualcosa di serio. Zurich Connect ti offre una polizza auto da 220 euro. Essere online è una cosa seria. Zurich Connect, online da 150 anni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su zurichconnect.it. Anno nuovo, Colombo. Tempo di buoni propositi, eh? Sì, buttar giù la pancia, per esempio. Ma se riuscissi a trovare una soluzione gestionale innovativa per digitalizzare il mio business. Provi Fluentis ERP, è gratis per 30 giorni. E se scegli un'installazione in cloud, i primi 12 mesi sono scontati del 50%. Ah, però, interessante, Ghirardi. Vada su fluentis.com, scarichi l'app e potrà iniziare da subito la sua Fluentis Experience. Fluentis, la F che funziona. Con Suzuki 4x4 All Grip, ogni percorso sarà una sfida da vincere. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip, risveglia il tuo istinto. Scoprila sabato e domenica. Info su suzuki.it. Suzuki. Tutti convocati. Oh, perché fai pena, però, Berna, fai pena. Fai pena, cioè io faccio così. Io tiro una raschietta. No, no, fai pena. Non puoi parlare, non puoi parlare. Senti, siamo 1-0 vinto, tu non puoi darmi pena di poi. Cioè, devi usare la testa, devi usare. Non so più come dire. Cioè, non è questione di dirti io ti vedo, ti saluto. Cioè, io con te non sto tranquillo in campo, già c'ho cazzi miei. In più c'ho te sulla sedia, io sproppio, perché non sei alla testa. Questo era il solito sobrio Fognini, vale per l'altro giorno quando ha vinto il match, ma vale per sempre. Non so cosa abbia combinato oggi sul piano arbitrale, un paio di racchette mi pare le abbia lanciate, però il punto è che ha vinto al quinto set, una partita in cui è successo di tutto, con l'australiano Thompson. E io saluto il mio amico Stefano Melocchero da Sky, ciao Stefano. Ha vinto, caro Carlo, ha vinto, caro, una bella mio. Partita Fabio, poi sai, vincerne due consecutivamente in 5 set è una cosa, cioè significa veramente. E poi ti pongo un'altra questione, secondo me, come insegna la storia del tennis, diciamo che Fognini non credo sia addoloratissimo, arrivo a essere cattivo, non credo sia addoloratissimo della contemporanea sconfitta sia di Berrettini che di Sinner, perché sai, il tennis è e resta uno sport molto individuale. Poi ovviamente le dichiarazioni pubbliche saranno altro, però secondo me diciamo che Fabio non ne ha fatto una tragedia di essere proprio quello che oggi ha vinto degli italiani. Sì, le bandiere contano fino a un certo punto, le bandiere di appartenenza naturalmente contano fino a un certo punto, perché poi c'è uno che vince e uno che perde, e i derby alla fine è meglio evitarli, no, Pierluigi? No, ma sai perché Carlo? Perché comunque essere il Fabio per anni è stato il numero uno, poi lo scorso anno ha vinto il suo primo 1000, improvvisamente però c'è stata l'esplosione di Berrettini, l'esplosione di Sinner. Aspetta un attimo, certo periodo mettetevi in fila, perché c'ero prima io. Capito? Sì, e allora secondo me il fatto di riprendersi lo scettro. Sicuramente mediaticamente è stato un po' nascosto, no? È stato subito scavalcato, sì, dalle imprese degli altri, quindi capisco il ragionamento di psicologia anche un po' spicciola, ma assolutamente verosimile del professor Melocchero, sicuramente. No, per quanto riguarda Berrettini e Sinner, che invece sono usciti, quanto a Sinner mi viene da dire che non si può andare in giro vestiti così e pretendere di vincere in Australia, cioè, perché quella maglietta perché non hai visto, è uscita dal pigiama party del Napoli, tu hai visto solo la maglia, non hai visto la tuta di quella serie lì, che indossa anche Grigor Dimitrov, che infatti ha perso anche lui. Beh, come giusto che sia, perché non si può andare in giro vestiti così. L'hai visto Pierluigi? Hai visto questa miss? No, non l'ho vista, com'è? Hai presente Naio Leare ai tempi dei Paninari? Sì. Simile, correggimi, abbiamo tutti l'età giusta, vintage. No? Vintage, chiamerei un altro. Ma comunque, fatto sta che giustamente sono stati. No, dispiace per Sinner, però il ragazzo si farà anche se ha le spalle strette. Melocchero lo sa meglio di tutti, no? da noto cantautore. Berrettini su Berrettini, che succede? No, non succede assolutamente niente. Dico soltanto perché pure... Aspetta, collegamento Radio 24. Posso dire una cosa? Sì. Abbiamo già degli exit poll abbastanza precisi. Possiamo dire che ho nettamente il miglior telefono della puntata. Auriemma che sembrava felice cacchiamo dell'imitazione, un po' metallico dell'imitazione di Teo, cioè, e Melocca, vai. Ho nettamente il miglior telefono. Anche se ce n'è tra i vari insulti ce n'è che per le telefoniche, per i collegamenti telefonici ce n'era uno anche per te, che no, era aspetta che era questo, adesso te lo vado a cercare. C'era un WhatsApp, perché all'inizio sentivano dei rumori di sottofondo che non riuscivamo a decriptare, e c'è Francesco che ha scritto: ma Pardo sta parlando davanti al plottone d'esecuzione, cosa sono i tamburi in sottofondo? Speriamo di no, oddio, che erano i tamburi. no, lo so di essere ultimo in classifica sui telefoni, per questo nelle rare circostanze in cui sembra tenere oggi dice... godi abbastanza, però me lo ancora ricollegato come il discorso di Fognini prima, le piccole soddisfazioni, però me lo ancora ricollegato, no? sì ce l'abbiamo, ci sei, no? Il mio aplomb britannico, Stefano, ma non è professionale, però non avere un telefono all'altezza, questo mi permetto di dirlo, te lo dico con l'affetto che nutro per i confronti dell'amico. No, che succede a Berrettini? Che succede? Allora, ribadisco, a Berrettini non succede assolutamente niente. Pensa che pur nella tragedia della sconfitta contro Sandgren, che comunque è un bel rompipalle a questi livelli, perché è uno che ha vinto partite importanti, è uno che qualche anno fa in Australia ha fatto miracoli, ha fatto comunque meglio dello scorso anno, nel senso che lo scorso anno aveva perso il primo turno, quest'anno una partita l'ha vinta e ripeto, con Sandgren su questi campi qua si può perdere in un momento particolare in cui comunque perdi i primi due set, poi te la giochi fino alla fine. Ha commesso qualche errore, era stanco nel quinto set, però non c'è nessun problema. Voi dovete sempre pensare che Berrettini per i primi 5 mesi dell'anno qualsiasi partita giochi, ovunque giochi, guadagna punti, perché lo scorso anno non fece nulla fino a maggio. I problemi per Berrettini cominciano da maggio, quando gli cominceranno a scadere le cambiali del 2019 meraviglioso che ha fatto. E invece c'è un ascoltatore che scrive: se continuate a far finta di niente con Fognini non smetterà mai di fare il coglione. Ma noi che dobbiamo fare? Chi siamo noi? Facciamo pedagogia? Siamo. Non, che dobbiamo fare? Praticamente noi siamo Fognini. I genitori di Fognini. Fognini appartiene a quella categoria numerosa, perché poi non sono pochi, di irregolari dello sport che ogni tanto esagerano e commettono degli errori. E noi glielo diciamo, poi che devi fare? Un fondo di sottile romanticismo, come dicevamo prima a proposito del cartellino rosso, anche un giocatore imperturbabile come Leiva, o invece uno più perturbabile come Balotelli. Cioè che ci sia un elemento umano, se vuoi anche romantico, di follia in questi irregolari, questo è ovvio, però non credo che nessuno abbia mai detto che fa bene Fognini quando insulta l'arbitro, quando spacca la macchina. No, ma così come... credo che sia un limite soprattutto per lui, credo che anche lui razionalmente vorrebbe gestire meglio, però insomma io quello che dico è che ognuno è quello che è. Non si può normalizzare Cassano, capito? Non so come dirti, che tra l'altro è una delle persone più calme del mondo, fidatevi, perché è una delle persone più calme e pacifiche del mondo ormai da tantissimi anni, ma comunque non lo puoi normalizzare, nel senso che comunque è quella roba là. No, te lo pigli così, poi non è che... No? Insomma, quindi non è che Fognini può diventare... Comportamenti Carlo. Discutibili, però torniamo al discorso di prima, questo macro discorso, non possiamo dire ma sei esempio per questo o quell'altro, no, ragazzino, poi, ragazzi, perché non è un discorso che sta in piedi. Carlo, vi ricordate un paio d'anni fa quando Fognini insultò pesantemente con insulti di stampo sessista alla giudice di New York? Sì. Lì lo stavano per squalificare. Allora, quella fu una roba molto brutta, veramente non degna proprio di un professionista. Per quanto riguarda quello che è successo qua, siamo all'acqua fresca totale, perché ovviamente Fognini fa sempre titolo quando litiga con l'arbitro, ma stavolta voi dovete pensare che il rapporto che hanno i professionisti con gli arbitri è come quello che abbiamo tra di noi, cioè sono colleghi, girano 12 mesi l'anno insieme. Fognini ha Carlos Bernardes, che è un arbitro dei più esperti e simpatici del circuito, ha avuto uno scazzo come se io giocassi a padel con Pardo e gli dico a un certo punto: Pier, sai che mi hai rotto veramente le scatole, cioè basta sbagliarsi i rovesci, e lui dice no, ma non, cioè sono fratelli, per cui è chiaro che farebbe meglio a risparmiarselo, ma è altrettanto chiaro che l'altro giorno io la litigata l'abbiamo sentita tutta, non è accaduto nulla, non gli ha detto nulla di volgare, gli ha detto cose che si dicono tra amici, questi vanno a cena la sera poi dopo, capito? Sì. E poi probabilmente lui è il primo che di fronte a queste situazioni ne paga pegno, perché se riuscisse a essere probabilmente più tranquillo, più sereno, questo gli darebbe una mano anche dal punto di vista pratico. Cioè io credo che tu lo conosci meglio di me, che uno dei temi psicologici di Fognini sia proprio quello di riuscire a gestire la sua conflittualità, la sua aggressività, la sua umoralità, no? Penso che tutta la io vita una volta che lui l'ho intervistato su questo argomento e sono riuscito a farglielo confessare. Lui mi disse, mi confessò: guarda, le mie frustrazioni sono tali, cioè io so di poter giocare talmente bene che quando non mi succede me la prendo con me stesso al punto tale che divento pazzo, e dunque divento pazzo con chiunque mi capiti a tiro in quel momento. Questa è la soluzione. Allora, è lui il primo a pagare pegno di questo tipo di situazione, no? Ma certo. E quindi, per carità, poi ribadisco, è ovvio che quando succedono queste cose non credo che nessuno dica ammazza quanto è figo, quanto è bravo, fate come lui, non lo dice nessuno, però non dobbiamo neanche essere qui con la matita rossa o con la matita blu a segnare gli errori come se fossimo, non lo so, il preside della scuola che dirà, non spetta a noi, secondo me non spetta a noi, non è neanche giusto, perché poi la gestione del proprio sistema psicologico è fondamentale. Ci sono campioni e giocatori di tutti gli sport che hanno bisogno di stare tranquilli, di stare sereni, e ci sono campioni e giocatori di tutti gli sport che hanno bisogno di turbolenza, in guerra, che hanno bisogno di turbolenza, ed è uno dei misteri belli di questo sport. Poi è ovvio di tutti gli sport, quando c'è il sessismo, quando c'è, beh, non è capitato, il razzismo, quando c'è l'insulto, eccetera eccetera, pesante, si apre un capitolo completamente diverso, come si apre nella vita quotidiana. Allora, prima del traffico che va in onda, tra un attimo, momento fashion corner. Il completino di Sinner era bello quanto quello di Bennacer il giorno che ha firmato per il Milan. No, secondo me quello di Bennacer rimane imbattibile e imbattuto. Sinner secondo in classifica. Traffico, torniamo subito. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Una partita di calcio, se il pallone prima di entrare in porta viene colpito accidentalmente dall'arbitro, è gol o non è gol? È gol. No, non è gol. Con le nuove regole introdotte nel 2019 l'arbitro non viene più considerato come un qualunque elemento di gioco, quindi se il pallone colpisce l'arbitro in qualsiasi zona del campo il gioco viene interrotto, a meno che non sia la Juve. Ok. Sono le regole. È che l'ho scritta io. Sono le regole della Juve. Le regole della Juve. Ah, guardate, sembra che l'ho scritta io. Guosi Milan, Giu Giunguo, Ciomi. Momento comunicazione invece, abbiamo sentito Paolo Bonolis prima in una gag del suo Avanti un altro, e poi Conte che parla in cinese perché Capodanno cinese, l'Inter farà anche le magliette per Family Look che guarda Oriente, insomma. Qualcosa da dichiarare, Pardo, su questo momento? Che diciamo, Libertini? No, dai, che devi dichiarare? Non lo so, la gag quando è andata in onda, non lo so. Vabbè, sembra una battuta, onestamente. Sappiamo tutti che Bonolis è un grande tifoso dell'Inter. E sto su Conte, vabbè, è straordinario. Cioè, la roba lì è viralissima, perché cioè non è proprio credibile al 100%. Ma che poi su Bonolis, i tifosi hanno il nervo talmente scoperto certe volte. Ieri c'è un ascoltatore mi ha mandato dopo il programma una mail: oggi è emerso tutto il suo odio per l'Inter, si vergogni. Tu ieri? Sì, io ieri. Ma sai che l'ho pensato anch'io ieri durante la puntata? No, ieri durante la puntata. Ma non ne ho la più pallida idea. Calzeggiando con Turrini ho detto: è emerso tutto il vostro lato, per cui siete dei frignoni, perché ogni volta che siete lì a guardare gli altri, sai, le solite cose che si dicono. Quando c'è Turrini vale tutto, c'è una sorta di immunità. Ma bisognerebbe, però mi sento banale e retorico a dire, ci vorrebbe un po' di leggerezza, lo so che non è facile, però ti dico la verità, capisco pure che non sia facile, perché poi i tifosi veri sono quelli che spendono soldi, quelli che cambiano umore a seconda del risultato della propria squadra, sono quelli che fanno le trasferte, quindi Lo so, ma vabbè, ho capito. Poi questo è l'invito, poi, sì. Però capisco pure che insomma, sì, perché tifoso vero certe cose. Divertiamoci, se no diventiamo un po' tutti fognini, certo. Menocchio. Siamo un po' tutti fognini. Sì, noi secondo me abbiamo, secondo me abbiamo il dovere. Abbiamo il dovere di svelenire, di alleggerire per quanto possibile, sempre però mantenendo quella sacralità del calcio, perché quello che dice Pierre è profondamente vero, cioè comunque c'è gente che ci investe parti importanti della vita in tutti i sensi, compreso l'Iban, per cui siamo leggeri ma rispettiamo tutti. Allora, perché questa condizione, so, chiudo qui, questa condizione che abbiamo di chi essenzialmente sa che non gliene può fregare di meno e non gli cambia minimamente la vita se vince una squadra o vince un'altra, è una condizione che il tifoso vero non ha, e quindi va capita. Poi ripeto, certo, l'invito è veramente a godersi la bellezza del calcio, la bellezza delle rivalità, secondo me esiste, dice vabbè, è facile dirlo per te, anche una bellezza delle sconfitte, cioè comunque del partecipare agli eventi, poi certo se perdi sempre tutta la vita magari rosi, però voglio dirti, essere parte di questo pezzo di storia, avere il calcio e lo sport nella nostra vita che ci riempie le giornate, che ci fa litigare, ridere, piangere con gli amici, questa è già una cosa bellissima, bisognerebbe viverla così. Mi rendo conto, però ripeto, poi vagli a dire al tifoso che perde al 90esimo perché vabbè, gli danno il rigore. Lo so, dici, allora cioè, chi scrive questo messaggio lo voglio leggere, anche perché allora altro argomento era un argomento molto triste, il periodo dei crociati. Volete fare un saluto, un in bocca al lupo a Dominic Paris? Lo facciamo certamente, certo. e con tutto il cuore, però un incidente così dannato, disgraziato, che ci toglie uno dei forse il nostro miglior in questo momento. Io sono convinto che Dominic Paris avrebbe, secondo me, 3-4 gare prima della fine della stagione le portava a casa sicuro. Quella è una cosa brutta veramente. Ecco, lì c'è da soffrire, lì non dobbiamo svelenire, lì dobbiamo soltanto stare vicini a un ragazzo che è veramente forte e anche un gran bravo ragazzo. Vabbè ragazzi, io chiudo qui, raggiungo Stefano Melocchero a Sky, ti vedo a Sky dopo? No, non ci sei. Non credo che mi vedrai, ma non possiamo escluderlo. Non possiamo escluderlo, bene. Perché stai sempre a Sky, ma ci devi dire qualcosa? No, devo andare a Sky dove c'è il mio amico Sasha Giorgiovic, alle 16. Sì, allora vado con lui. Vieni. A che ora lo vedi? Siamo in onda dalle 16 alle 16.30, momento propaganda. Siamo a fare la riunione, magari saluto se vedi il noso, salutamelo. Se lo vedo te lo saluto. Vabbè, ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao alla prossima. Claudia Schiattone, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani, enjoy. Gozi Milan, giù giungo, ciao mi.